Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera a tutti e benvenuti alle buonanotti di allineamenti. Qui è Gas che vi parla, e anche per questa settimana siamo per svolgere alla conclusione. Domani è l'ultimo giorno della settimana, infatti venerdì. E siamo tutti molto contenti perché poi ci aspetta il weekend. Cosa avete in mente di fare? Cosa volete fare? Cosa farete? Chi lo sa? Io vi auguro grandi avventure. Io di avventure ne ho prese un po' in anticipo quest'anno. Ho preso il Giappone ad aprile, ma ho preso sto pensando al viaggio di quest'estate. Quindi anch'io dico anticipate i pensieri, ma agite. Quindi anche se non avete niente in programma, magari domani sera finito il lavoro, prendete partite verso l'oceano, un po' come questa canzone di sottofondo che abbiamo messo nuova per allineamenti con Ocean di John Butler. Questa puntata è l'ultima della settimana. Io in questo percorso che abbiamo fatto insieme per cercare di chiudere le scuole con il test di Giovanni Papini del 1914, che si è concluso e l'abbiamo finito. Quindi questa puntata da raccontarvi qualcosa. E è vero, mi piaceva come concetto quello di darvi quello della chiusura delle scuole, di chiusura dei posti dove si ritrovano tante persone, vengono uniformate. E però visto che sono una persona contraddittoria, volevo portarvi anche questo spunto, ovvero che ogni tanto essere un po' conformati, se si può dire, essere un po' contaminati e resi un po' più vicini non è male. A me è capitato nel dicembre del 2015, se non mi sbaglio, ormai è passato un po' di tempo, perché nel dicembre 2015 mi è venuta questa pazzia di iscrivermi al CVS di Como, che vi consiglio perché è un ottimo, ti dà delle ottime opportunità. E con il CVS di Como c'era un progetto per andare in Slovenia. Capito quanto ispira la Slovenia, ma soprattutto non perché ispira tantissimo la Slovenia, ci sono dirti un sacco, sono perché dovevamo andare a Tribuie, quindi è un posto dove chissà dove cazzo andavamo, diciamocelo sinceramente. Andavamo in un posto che nessuno sapeva dove era, e l'unica roba che quando guardavo le foto su Google di Tribuie, vi invito ad andare a guardare Tribuie su Google, vedevi soltanto una ciminiera altissima. Infatti in quelle zone ci sono un sacco di ciminiere, di miniere. E in quella settimana che abbiamo vissuto in Slovenia abbiamo avuto anche l'opportunità di fare una maratona dentro le miniere. Ci siamo sporcati come dei porcelli. E vabbè, la storia è che 5 ragazzi di Como vanno in Slovenia per un progetto culturale dell'Unione Europea. E quindi diciamo, stiamo mettendo in un grande edificio tante persone insieme per fare un po' di contaminazione culturale. C'eravamo 5 ragazzi di Como, come dicevo, 5 estoni, 5 ungheresi, 5 rumeni, 5 sloveni naturalmente. E per una settimana ci siamo scambiati un confronto letterario di condivisione, e da quella settimana poi è nato anche allineamenti, quindi diciamo è il nostro incipit, la nostra miccia della storia. E quindi volevo un po' contraddirmi rispetto a quello che vi ho detto del chiudere le scuole, ma volevo dirvi, apriamo invece a questi incontri, perché si incontrano persone straordinarie. Io oggi, infatti, questa sera, volevo leggervi alla fine della settimana il libretto che abbiamo costruito. In particolare vi voglio leggere 3 poesie che hanno scritto 3 ragazzi, 2 ragazzi e una ragazza estone, che sono la nazione che secondo me ha spaccato di più. Erano veramente dei gran fighi. E questo è Steven, un rastone già sposato con una donna con molti più anni di lui e con 3 figli. E la sua poesia si chiama 7 Levels of Finding Faith. E ve la leggo subito. È stata scritta a Mustamé il 15 gennaio del 2014. Level 0. Absence of Fate Yourself. Level 1. Finding Fate in Yourself. Level 2. Finding Fate in God. Level 3. Dissolving Fate in Yourself into Fate in God. Level 4. Dissolving Fate in God into Yourself. Level 5. Dissolving Yourself in God. Level 6. Talking about it publicly. Level 7. Escaping from mental hospital. E tanto per continuare la puntata della contraddizione di questo fine settimana, che spero che vi porti a modificare i vostri piani e andare via, dopo la poesia estone andiamo alla canzone brasiliana. Vanessa De Mata e Ben Harper con Boa Sorte, e poi vi leggo gli ultimi due pezzi di questa settimana. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras. O que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim, irreais, expectativas desleais. Yeah, that's it, there's no way, it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to give me. It's é too much. Não it's heavy. Tudo que there's no peace. All you want from me is real expectation. Eccoci qua, E dopo Steven vi racconto anche di May. May era una ragazza super fuori di testa che voleva fare la rapper e girava per l'Europa nonostante fosse estone, principalmente in Svizzera, tra l'altro, incredibilmente. E lei principalmente faceva queste poesie molto rap. Io non so in inglese cosa riuscirò a combinare, però Nostalgia di May Angeriav. L'ho detto sicuramente male. Mind Games, Manipulation of Time and Space, Hating and Loving, Deigning, Then I'm Coming, Hugging After, Then Saying It's Just a Phase, Don't Fuck Me, But Love Me, I'm Running, But Stay, No Physical Contact, But Your Gun Needs a Name, I Need Contrast, A Contract, and A Home for the Way, I Need a Bird from the Project, I Need to Breathe While Being Unconscious, I Need to Pray More and Talk Less, and Someone to Blame, Want of Love, No One to Hate, Fully Sober or 24/7 Shit Face, Someone Perfect or With Perfect Mistake. Era una tosta, ve l'ho detto, era una tosta. E poi arriviamo al più tosto di tutti, quello che con cui ho legato di più, il mio grande amico Argo Palman, che probabilmente si trova ancora in Germania ad Amburgo e non sento da un po', e con questo libretto probabilmente mi è venuto in mente di scriverli. E quindi un altro invito a voi, miei cari ascoltatori: contattate qualcuno che non avete contattato da tanto tempo, non dimenticatevi di quelli con cui avete vissuto anche per pochi giorni e che vi hanno fatto vivere bene. E quindi Working di Argo Palman. Nature overflows, green season, nominal dominus, changing reason, the ultimate law. For season of unknown, sorrow can't keep us. Take the eyes from polar bears, cheese from mice, fish from seals, monkey lies. Find the apple, start to fight, reason real. Take the sand, empty the desert, pump the oil, rob the peasant, fuck the soil. Paint the fathers with the feathers, hand in hand, crack your hands, start working, capitalism isn't stopping, start shooting, fuck the system, it's not working, fuck the system, it's not working, it's not working. Rape the mother, kill the father, the children are doomed, why bother? Brothers and sisters, misses and misters, fuck the system, it's not working. E con questo è tutto. Andate a spaccare. Divertitevi questo weekend. Fate qualcosa di contraddittorio. Contattate qualcuno che non avete, a cui non avete scritto. Scappate da un ospedale mentale. Riprendete la speranza, perdete la speranza. Credete che siate voi la speranza. Mi raccomando, chiudiamo le scuole e buona settimana. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.